e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buon inizio settimana da Nicoletta e Deborah, buongiorno, eccoci qua. Allora, cari amici, il 21 gennaio è entrato in vigore il cosiddetto decreto Lorenzin sull'appropriatezza delle prescrizioni, approvato il 9 dicembre del 2015. Ne parliamo a cuore denari per conoscere le novità di questo provvedimento, che si propone di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria, e per valutare come e in che misura impatterà sul rapporto tra noi e il nostro curante. Voi ne avete già notato gli effetti, vi pare che il vostro medico abbia stretti i cordoni della borsa? 800 24 00 24, una puntata che suona anche come un invito a prendere in esame la relazione che abbiamo con il nostro curante e l'atteggiamento nei confronti del controllo della nostra salute. Eseguite regolarmente gli esami, controllate emocromo, colesterolo, trigliceridi, ferro o solo al bisogno? Aderite ai programmi di screening oppure avete una visione personale un po' anarchica della prevenzione? Il nostro numero verde è già a vostra disposizione, così come il nostro ospite, il dottor Carlo Gargiulo, che è tornato a trovarci, medico di medicina generale, col quale entreremo virtualmente nell'ambulatorio del nostro medico di famiglia e con cui parleremo non solo degli esami, a cui forse dovremmo rinunciare, ma anche dei farmaci che stiamo assumendo, quelli contro il mal di stomaco, per l'asma, il colesterolo. Bene, nei primi 9 mesi del 2015 ogni italiano ne ha assunti oltre una dose al giorno, consumandone in media 14 confezioni a testa, ovvero 1,5 al mese. Questo è in lieve crescita rispetto allo stesso periodo del 2014. Questi dati sono stati fotografati dal rapporto OSMED relativo al periodo gennaio-settembre 2015, che è stato appena pubblicato. Quindi 800 24 00 24 per le vostre esperienze, i vostri dubbi e le vostre domande. Allora, per quello che riguarda la pagina di denari, invece, andremo questa mattina ad analizzare una serie di nuove misure che sono state presentate dal ministro del lavoro Giuliano Poletti la scorsa settimana, insieme a tutto il governo. Naturalmente si tratta del cosiddetto Jobs Act dei lavoratori autonomi, misure che introducono nuove tutele e anche particolarmente attese da molti anni per chi lavora in proprio, tutele che appunto mancavano in Italia e che queste categorie di lavoratori richiedevano da tempo con tante battaglie. Parleremo quindi di come viene tutelata la lavoratrice o il lavoratore in caso di maternità, di malattia, come potrà gestire con più flessibilità alcuni aspetti del suo lavoro, potendo comunque godere di alcuni diritti che prima non erano garantiti. Mettete subito mano alla cornetta se volete, 800 24 00 24, raccontateci naturalmente se siete dei liberi professionisti, dei lavoratori autonomi, in quali aspetti della vostra vita avete sentito chiaramente la mancanza di tutele che invece il mondo del lavoro dipendente ha e che naturalmente per il quale sono assicurati. Conoscete questo nuovo provvedimento varato settimana scorsa? Ne parleremo a partire dalle 11:20 circa. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Solo quello che serve, Deborah, il resto si taglia. È una regola questa di buon senso che ha permesso a tante famiglie di restare a galla anche nei momenti difficili, e alla stessa filosofia si ispira il decreto Lorenzin entrato in vigore il 21 gennaio e che, al fine di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria, stabilisce che gli esami di laboratorio e le visite specialistiche potranno, d'ora in poi, essere prescritte, dietro pagamento del ticket, solo in presenza di determinate condizioni, in assenza delle quali saranno totalmente a carico del paziente. Naturalmente le obiezioni e le polemiche che avevano accompagnato il provvedimento ancora in fase di preparazione non si sono placate, ma noi oggi non entriamo nel merito, lasciamo le critiche e le proteste delle associazioni di cittadini e pazienti, dei medici sullo sfondo, cerchiamo di capire esattamente che cosa dice il decreto per valutare naturalmente le eventuali conseguenze. Insomma, manteniamo, Deborina, il sì, taglio di servizio di cuore denari, che è informarsi per attrezzarsi, se vuoi, oppure prima capire e poi agire. Ci aiuta il dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale. Buongiorno, buongiorno dottor Gargiulo. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori. Ecco, che a me piace chiamare ancora medico di famiglia, so che poi gli ascoltatori scriveranno e diranno non c'è più questa, però insomma per me rimane il medico di famiglia di cuore e denari. Allora, dottor Gargiulo, prima la diagnosi e poi la terapia, no? Queste litere, noi anche in questa puntata ci occuperemo prima di esami e di controlli e poi di farmaci, così faccio un breve sommario. Prendiamo infatti spunto dal decreto Lorenzin e poi proseguiremo commentando i dati appena pubblicati del rapporto OSMED che fotografa il consumo dei farmaci nel nostro paese e la spesa che ne deriva. Questa mi sembra sia una buona occasione per riflettere sia sul rapporto che abbiamo con il nostro curante e con la prevenzione, che con i nostri farmaci, con l'eventuale terapia che stiamo assumendo in modo più o meno corretto. Ci sta, dottor Gargiulo? Ci sto tranquillamente e sicuramente siamo in un momento in cui l'eccessiva medicalizzazione, l'ipermedicalizzazione è uno dei problemi fondamentali che dobbiamo affrontare tutti i giorni. Noi medici anche abbiamo qualche responsabilità, anche più di qualche responsabilità, perché forse siamo un po' troppo portati a medicalizzare, cioè ogni cosa per noi diventa un momento per trattare questo paziente. Allora forse un passetto indietro lo dobbiamo fare senz'altro. Non credo, ma non voglio far polemica, che sia il decreto la strada giusta, però sicuramente è una cosa che ci fa riflettere e ci fa pensare su alcuni errori che possiamo aver commesso, alcune richieste inappropriate che ci arrivano quotidianamente e soprattutto la necessità di rispondere da una parte al Servizio Sanitario Nazionale che ha delle risorse che finiscono, che non sono infinite, e dall'altra alle istanze di salute che ahimè aumentano giorno per giorno. Allora, questa vuole essere un po' una puntata di riflessione. 800240024, quali sono gli ultimi esami che avete fatto? Qual è il programma di screening a cui avete aderito? E queste sono due domande per rompere il ghiaccio e parlare più in generale del rapporto che abbiamo con il nostro medico curante e con la prevenzione. Se è vero che nella coppia c'è solitamente uno dei due che guida, chi è tra voi e il vostro curante? Dottor Gargiulo, a proposito, le è mai capitato che un suo paziente le chiedesse, o meglio le suggerisse, la prescrizione di alcuni esami, una cosa del tipo: senta dottore, secondo che dice me ho bisogno di fare questo, vero? Che dice di fare un bel emocromo, non lo so, sono stanca. Tipo come nell'investimento, che dici di darmi un prodotto che rende il 20%? Brava. Guarda, ho avuto una buona idea. È un tasto estremamente dolente, perché quotidianamente succede che il paziente arrivi e mi dica: dottore, allora facciamo tutte le analisi, che questa è già la frase classica con cui si siedono per fare uno screening, ma non solo, ma quando io dico vediamo che cosa, vediamo le analisi precedenti, vediamo cosa è necessario fare, cerchiamo di capire, quando ho finito di stilare la mia ricetta, la mia prescrizione, mi dicono sempre: ma ci ha messo anche questo, ci ha messo anche quest'altro, io ho letto che questo fa bene. Insomma, c'è sicuramente una grossa mole di informazione che arriva sul cittadino, sul paziente, e questo la trasferisce al suo medico. È chiaro che è compito del medico filtrare questa informazione, cioè capire quanto può essere utile e quanto non serve, e quindi far muovere il cittadino su dei binari che consentano di tutelare, di prevenire soprattutto le malattie, perché questo poi è il grosso nodo. Il decreto va a colpire un pochino la prevenzione, che è quello è il rischio vero della il rischio vero è quello di non poter fare per il nostro paziente tutto quello che noi riteniamo utile fare, perché ci dobbiamo muovere all'interno di qualche bizantinismo che non è sempre facile da interpretare. Certo. È chiaro che il paziente chiede, questo non ci sono dubbi, anche perché tutti i giorni in televisione, sui giornali, per radio, insomma, notizie ne arrivano tante, però non sempre chi ascolta ha la capacità di filtrare queste notizie e trasferirle su se stesso. Ecco, compito del medico è anche questo, noi non possiamo trascurare un paziente informato, l'informazione che ci porta un paziente solo perché io sono medico e tu sei il paziente, no, non è più così. Io ti ascolto e poi ti dico: guarda, qui è giusto, qui è sbagliato, questo lo facciamo, questo non lo facciamo. Dottor Gargiulo, il decreto è un decreto molto discusso, ma necessario probabilmente, perché si è calcolato che ogni anno esami e visite inappropriate costano 13 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale, che è una cifra, direi, di tutto rispetto, che nel tempo potrebbe essere redistribuita nel Servizio Sanitario. Ecco, io qui ho un dubbio sul termine inappropriato, perché in realtà troppo spesso viene confuso un esame negativo come un esame inappropriato. Non è vero. Se io le faccio una radiografia del torace perché ho un sospetto di polmonite e questa radiografia viene negativa, quell'esame non è inappropriato. Quell'esame è un completamento diagnostico giusto a un mio percorso diagnostico mentale è fatto attraverso una visita, ma io ho bisogno di quel completamento. L'esame viene negativo e più delle volte viene archiviato come inappropriato. Inappropriati sono quegli esami che vengono ripetuti inutilmente. Quante TAC, quante risonanze magnetiche vengono ripetute solo perché lo specialista di turno decide che quella fatta in quel posto non è la TAC giusta, ma deve essere rifatta in un altro posto. Lì io insisterei un po' di più, lì farei magari una sorta di cartellina, diciamo di tesserino sanitario del paziente nel quale si possa vedere tutte le prescrizioni che gli vengono fatte. Lì forse bisognerebbe lavorare un po' meglio. E poi un'altra cosa, non dimentichiamoci che il risparmio che viene ventilato è tutto un risparmio a carico delle classi meno abbienti, perché se lei fa caso, gli esami del sangue che vengono prescritti al paziente che non ha un'esenzione dal ticket, se li paga di tasca propria e continuerà a pagarsi di tasca propria, li potrà fare quando vuole. Gli altri, gli esenti ticket, i giovani che magari sono disoccupati o che sono inoccupati, insomma quelle classi più deboli pagheranno un po' più caro questo decreto. Ecco, adesso entreremo tra poco nel merito, perché la musica cambia un po', esami di laboratorio e visite specialistiche potranno d'ora in poi essere prescritte dietro il pagamento di ticket solo in presenza di determinate condizioni, giusto? In assenza delle quali saranno totalmente a carico del paziente, ma andremo a vedere tra poco di quali esami stiamo parlando e quali sono le condizioni, che cosa cambia per il medico, ma quello che ci interessa di più, dottor Gargiulo, è che cosa cambia per noi pazienti. Intanto volevo, dato che abbiamo invitato i nostri ascoltatori ad intervenire, iniziare un po' a sentire, no, i nostri ascoltatori, perché daranno sicuramente spunto con le loro domande al dottor Gargiulo di fare un commento, una puntualizzazione. Molto sentito. Sì. Allora, io andrei subito a Mariuccia che ci chiama da Monza. Buongiorno Mariuccia, benvenuta. Buongiorno. Buon lunedì. Altrettanto. Allora, io ho mia mamma che ha 83 anni, un po' di anni fa gli è stato riscontrato un marchio tumorale CA19-9 un po' elevato. Abbiamo fatto lì vari accertamenti, intestino, l'oncologo, ha detto per il momento va bene, però deve rimanere sotto controllo. È più di 4 anni che non fa esami perché nel frattempo ha rotto il femore e via dicendo. 15 giorni fa ha fatto il controllo dal cardiologo, il cardiologo e anche lo psicologo, perché è andata in depressione, hanno consigliato di rifare questo esame perché appunto è tanto che non lo fa. Abbiamo fatto la richiesta al medico, il medico non lo può fare, non può fare la richiesta perché deve essere l'oncologo a farla, certo. Ecco. In più mio papà diabetico con neuropatia, richiesto dal diabetologo l'eco Doppler degli arti inferiori, anche lo deve fare privatamente perché in zona nessun ospedale lo fa più con il servizio sanitario. Allora Mariuccia, tutte le informazioni ce le ha date il dottor Gargiulo, quindi può fare un commento. C'è una figura del medico, dello specialista, l'impossibilità di fare degli esami perché nella zona non sono a disposizione. Le famiglie, dottor Gargiulo, poi si confrontano con questo genere di problemi. Adesso, sono due problemi diversi che commenteremo naturalmente subito dopo le informazioni sul traffico, poi sentiremo Carmine, ma cercheremo di capire quali esami magari ci verranno negati. A tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Cuore e denari. Buongiorno. Buongiorno, Radio Nertucci, febbre? 39. Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno. Eccoci, professore. Siamo tornati di nuovo insieme. La puntata di oggi prende spunto dal decreto Lorenzin che riguarda esami e prescrizioni, un decreto che sembra destinato ad avere ripercussioni profonde nella relazione tra noi e il nostro curante. Ne avete già avuto gli effetti? Il vostro medico vi ha rifiutato un esame? Chiamateci per raccontarci che rapporto avete con il vostro medico, soprattutto anche con il controllo della vostra salute. Qual è l'ultima volta che avete fatto un esame o qual è l'ultima volta che avete suggerito al vostro medico di prescriverne uno? Intanto ne stiamo parlando col dottor Carlo Gargiulo, a cui chiedo un commento alla telefonata della nostra ascoltatrice, che ha presentato due generi di problemi molto differenti. Sì, il primo problema è quello di un esame che non viene prescritto dal medico curante, perché in realtà il decreto Lorenzin chiarisce molto bene per quello che riguarda i marker tumorali. I marker tumorali non sono esami preventivi, sono esami che servono a controllare la crescita e lo sviluppo di un tumore, quindi la condizione sine qua non è che ci sia un tumore iniziale e poi i marker servono a controllarlo. Lì forse è stato fatto un piccolo errore iniziale, non andava fatto un marker senza aver visto un tumore, andava fatto realmente dopo per vedere questo tumore come cresceva. Fatto questo errore iniziale è chiaro che la signora ha vissuto questi 4 anni, credo anche abbastanza traumatici, perché non ha trovato nulla, ha cercato a destra e a sinistra, per cui era uno sbaglio. Oggi con questo decreto correggiamo anche alcuni errori, questo è vero, effettivamente alcuni errori che spesso facciamo più per leggende metropolitane. E allora ben venga l'idea di rimettere un po' le cose a posto. Altra cosa, il decreto chiarisce che ogni medico che decide di fare un accertamento o un esame se ne deve prendere la responsabilità. Quindi il medico di struttura pubblica, e questo gli ascoltatori lo devono sapere bene, deve essere lui che prescrive sul famoso foglietto rosa o che prescrive col Servizio Sanitario Nazionale. Non esiste più la possibilità di scrivere su un foglietto bianco, poi andare dal medico e farsi trascrivere questa prescrizione. Era già un errore prima, adesso da decreto non si può proprio più fare. L'altro problema invece è quello di non trovare un posto dove si fanno degli esami convenzionati. Lì, ahimè, il decreto non dice nulla riguardo. No, non è colpa purtroppo di questo provvedimento. Che cosa, lei ha un suggerimento in questo caso? In che senso? Per dove non se non si trova? Sì, che allora, si fa? Esistono i CUP. Io lavoro su una città come Roma, che è abbastanza grande. Noi abbiamo un CUP regionale a cui il cittadino si rivolge e riusciamo a trovare in un posto piuttosto che in un altro, più o meno vicino, più o meno distante nel tempo, l'esame che serve di fare, riusciamo a trovarlo. Mm-hmm. Certo, se questo esame è un esame che si deve fare perché ovviamente ci tiene in ansia dover aspettare dei mesi, oppure io consiglio al paziente di accelerare i tempi, purtroppo il ricorso alla sanità privata, cioè il ricorso al portafoglio, non ha altre vie d'uscita. Sì. C'è un'ultima possibilità, che è quella che il medico si attivi e sia lui a cercare attraverso il CUP il posto dove più rapidamente si può fare questo esame. È una possibilità che si usa solo in casi appunto di estrema urgenza, dove serve veramente un intervento veloce. Dottor Gargiulo, andiamo quindi al decreto, no? Abbiamo detto che gli esami di laboratorio, le visite specialistiche, no? Potranno essere prescritti solo in presenza di determinate condizioni, no? Ma di che esami stiamo parlando e quali sono queste condizioni? Mi fa degli esempi concreti? Allora, intanto una piccola correzione, sì. Sulle visite specialistiche non ci sono limitazioni, la sì. Visita specialistica, il consulto cosiddetto, non ha nessun tipo di limitazioni e quindi il medico sempre e comunque si può rivolgere al collega specialista per avere un dato, un elemento in più. Per quello che riguarda invece gli esami di laboratorio, i più comuni che il decreto ha colpito, fra virgolette, sono gli esami del sangue per il colesterolo e i trigliceridi. Lì il decreto è un po' tranciante, è un po' troppo rigido, perché ci dice sotto i 40 anni non si deve fare né colesterolo né trigliceridi né HDL LDL, perché non ce lo spiega, però dice che non vanno fatti a meno che non ci siano situazioni e condizioni particolari di patologia. Diciamo che lì è un po' un rischio, perché noi abbiamo sempre di più giovani che hanno problematiche di ipercolesterolemia, quindi forse lì siamo un po' a rischio. Altra cosa, il decreto ci dice che sopra i 40 anni, se dopo l'esame, magari alterato, non c'è un cambiamento nello stile di vita o non c'è la prescrizione di una terapia, lo stesso esame può essere ripetuto dopo 5 anni. Ecco, qui si limita un po' la libertà diagnostico-prescrittiva del medico, perché in realtà lo si incanala, lo si chiude in una gabbia che è troppo rigida, perché ogni paziente ha una storia a sé, ogni cittadino che si rivolge al medico ha una storia a sé e quindi una certa libertà decisionale secondo me sarebbe fondamentale. Poi ci sono delle limitazioni per quello che riguarda le transaminasi. Transaminasi sono degli esami semplici che si fanno per valutare la funzione del fegato. Anche in questo caso io non le faccio nel sospetto diagnostico di una malattia di fegato, le faccio tante volte per controllare una condizione di salute e in qualche caso ho identificato magari un paziente portatore di un'epatite o con un inizio di danno epatico proprio perché gliel'ho fatta fare di routine. Emocromo, la stessa cosa, l'emocromo è l'esame che serve per controllare lo stato dei globuli rossi, l'anemia, anche in questo caso lo si deve agganciare sempre alla ferro e alla ferritina, quindi complicare un pochettino la situazione, quando magari un emocromo come prima istanza ci potrebbe essere utile per capire già la condizione del nostro paziente, soprattutto della nostra paziente, perché spesso anemiche sono le donne in età fertile, e poi magari fare degli esami di secondo livello. Ecco, in questo senso il decreto è un po' vincolante. Chiaro che poi va anche al buon senso del medico e di interpretare al meglio possibile questo decreto, ed eventualmente adesso il nostro sindacato ci consiglia di fare una richiesta preventiva, cioè dare al paziente un foglio che il funzionario della ASL dovrà timbrare per autorizzare, e a quel punto ci mettiamo tutti tranquilli. Però lei capisce che diventa veramente una cosa difficile gestire così una situazione dove ci sono molti pazienti che noi dobbiamo trattare. Però, dottor Gargiulo, lei è stato molto chiaro, ce lo stanno dicendo anche al 349-238-6666 i nostri ascoltatori. Nella seconda parte della trasmissione parleremo anche del rapporto OSMED, e quindi del rapporto che abbiamo anche, oltre che la spesa, Deborah, con l'aderenza della terapia. Prendiamo certo molti farmaci, ma spesso li interrompiamo, un classico, no? Li prendiamo un po' quando ci sembra giusto, magari vediamo che fanno effetto, allora li sospendiamo. Sono soldi buttati, anche rischi per la nostra salute, ma continuiamo a stare nel decreto Lorenzin con Carmine che ci chiama da Napoli. Sentiamo che cosa ci racconta. Buongiorno Carmine, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno al professor Gargiulo. Il punto è questo: io ho mamma 70 anni, operata cardiopatica, per un semplice raffreddore l'ospedale le prescrive sempre sistematicamente caterba di analisi, e non medicinale, la rimanda, il professor Gargiulo lo conoscerà, il reparto cardiologico del Monaldi, con aggravio sulle spese sanitarie nazionali, snelliamo alcuni settori della medicina e ingolfiamo altri. Quindi Carmine, allora Carmine dice sono troppi questi esami, anche dottor Gargiulo. Sì, e in questo caso però se sono troppi ma te li prescrivono uno li fa. Che si deve fare? Non è che si può dire no, guardi, dottore, a me sembrano troppi. Non so se... No, questo non succede mai, non è mai capitato. Io apprezzo molto l'intervento di Carmine, perché in realtà è vero, tante volte noi per una precauzione in più, per una sorta, che è un problema che dibattiamo spesso, della medicina difensiva, quindi per la paura di non fare tutto, a volte eccediamo anche nelle richieste. Oddio, io non credo che nel caso specifico basti un raffreddore per scatenare il collega cardiologo a prescrivere tanti esami e tante analisi. Magari un paziente cardiopatico, teniamo conto che è un paziente un po' più fragile, quindi va tenuto un po' più sotto controllo. Però certo, magari se per il raffreddore gli prescrive il colesterolo o le transaminasi, forse qualche dubbio sulla necessità di questi esami posso anche sollevarlo. Dottor Gargiulo, lei è tornata a riprendere il tema del colesterolo. Sappiamo che c'è anche un colesterolo familiare, vero dottor Gargiulo? Certo. Ecco, ne parliamo anche nella seconda parte della trasmissione, perché in questo caso quando dobbiamo controllarlo e che cosa possiamo fare? Parliamo di colesterolo, ma non solo, parleremo anche di transaminasi, di emocromo e soprattutto parleremo anche di farmaci. Se vi è stata prescritta una terapia, raccontateci se siete aderenti, se fate esattamente quello che dice il medico, oppure se la pastiglia o le pastigliette le prendete un po' quando vi ricordate. 800 24 00 24, un numero verde per avere anche dei consigli molto precisi dal dottor Gargiulo. Ad esempio, dimentico la pillolina per la pressione, che cosa faccio? La riprendo anche in un orario diverso o salto il giorno dopo? Vi lascio con le notizie del GR, ma vi aspettiamo per la seconda parte di Cuore Denari. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al MUDEC di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Oh, I love you, Ken. Chi verrà, non lo dimenticherà. Cuore e denari. Più la matematica che mi perseguita. Seconda parte di Cuore Denari, siamo tornati insieme, in linea con noi il dottor Carlo Gargiulo, medico di medicina generale, medico di famiglia di Cuore Denari. Nella prima parte del programma abbiamo parlato del decreto Lorenzin, lo stiamo ancora facendo, 800 24 00 24. Fateci sapere se qualche cosa è cambiato nella relazione con il vostro medico, se vi sono stati rifiutati degli esami, se avete dei dubbi, chiamateci. Ma abbiamo aperto questa seconda parte del programma con la canzone Numeri, non a caso. Infatti è stato presentato recentemente il rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che fotografa l'uso dei farmaci da parte degli italiani. Allora, secondo i dati, sono oltre 23 le confezioni di medicinali che nei primi 9 mesi del 2015 sono state acquistate da ogni italiano, 14 in regime di assistenza convenzionata. Ma i numeri a parte, emerge anche un'altra tendenza: gli italiani, popolo di santi, poeti, navigatori, è abbastanza anche un popolo di indisciplinati rispetto alle prescrizioni del medico, perché le terapie si assumono un po' in modo creativo, diciamo così. Ne parleremo con il dottor Gargiulo, che resta con noi in questa ultima parte della trasmissione, prima di passare la linea naturalmente a Debora per il tema dei denari, che, lo ricordiamo, riguarda il Jobs Act dei lavoratori autonomi. Chissà gli autonomi, con il fatto che gestiscono con fatica i periodi di malattia, come si curano, anche come ricorrono agli esami di laboratorio, magari li riducono un po' per questioni di tempo. Quindi comunque siamo intrecciate. Siamo sempre intrecciate in qualche modo. Dottor Gargiulo, abbiamo pronunciato la parola magica colesterolo e già sono arrivati tantissime richieste, eccetera. Qualche volta facciamo dei test, basta una parola, una parola magica. A cui io ho aggiunto c'è anche un colesterolo familiare, cioè un colesterolo che, indipendentemente dalle correzioni dello stile di vita, sembra non avere nessuna intenzione di modificarsi. È così, dottor Gargiulo? Sì, in realtà esiste questa familiarità, questa dislipidemia, che se riguarda anche i trigliceridi, o discolesterolemia familiare, che è dovuta al fatto che in una famiglia, per una condizione genetica particolare, l'organismo produce più colesterolo di quello che serva all'organismo stesso. Ecco che a questo punto questo colesterolo in più che viene prodotto spesso si trasforma in colesterolo cattivo, cosiddetto colesterolo LDL, e può provocare dei danni. Ora, in questi casi ovviamente il controllo deve diventare un pochino più costante, un pochino più frequente. Però, ad esempio, il decreto ci dice che questo colesterolo può essere controllato nei soggetti con malattia cardiovascolare, e questa è una categoria, fattori di rischio cardiovascolare, altra categoria, o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemie o eventi cardiovascolari precoci. Cioè, questo vuol dire che se c'è una familiarità, e il medico di famiglia in questo senso nessuno meglio di lui lo può sapere, se c'è una familiarità noi possiamo effettuare questi controlli. Quello che poi è meno chiaro però è il paragrafo dopo, perché dice: in assenza di valori elevati o modifiche dello stile di vita o interventi terapeutici, l'esame è da ripetere dopo 5 anni. E qui secondo me è un errore, perché se anche il mio paziente non ha corretto il suo stile di vita, io non sono il censore dello stile di vita del mio paziente, ma sono colui che deve cercare di fargli capire che la mancata correzione a distanza di un anno ha portato a un aumento magari di questo colesterolo, e quindi gli sta provocando un danno. Poi è chiaro che ognuno è responsabile della sua vita. Io posso dirti: fai attività fisica, non mangiare questo, eventualmente fai una terapia, ma poi più in là di questo anche il dottor Gargiulo non può andare, non si può materializzare con una bacchetta a casa dei suoi assistiti. No. Mi invitano spesso a pranzo i miei assistiti, ma non posso andare a controllare quello che si mangia. Allora andiamo al nostro ascolto. Allora, ad Elchi da Torino, bello impegnativo. Buongiorno. Buongiorno. Bel nome impegnativo, ad Elchi. E quindi è bene. Allora, sarà una domanda? Sì. Io sono andato mercoledì dal medico. Sì. E mi ha detto: io ho chiesto di fare gli esami, questa roccia trigliceridi, il PSA. Mi ha detto: no, abbiamo aspettare 5 anni. Dico: ma nel frattempo come vivo così? Alla speranza? Io e il mio PSA, che quindi è un indicatore per capire un po' la salute della prostata. A me mi hanno operato di un carcinoma alla vescica, sì, l'anno scorso. Ho fatto 12 cicli di lavaggi di chemio. Al 6 di novembre mi hanno fatto un controllo, mi ha detto: va bene, ne facciamo ancora 6. Sì. adesso ho finito e da qui a un mese andrò di nuovo a fare un controllo. Ma io sono iperteso, eh? Sì. Ho la pressione che va su e giù come una matta. Sì, come una matta. E comunque avevo 66, 111. Quindi, Adelchi, mi scusi, le interrompo perché poi il tempo scappa. Io volevo dare al dottor Gargiulo l'opportunità di commentare anche il suo caso per dare delle indicazioni agli ascoltatori che si ritrovano in una situazione simile. Quindi... Sì, allora diciamo che il PSA, per quello che so io, sto riguardando il decreto perché penso di non ricordarmi bene tutto, ma il PSA non rientra negli esami che il decreto ha limitato. A noi dobbiamo seguire, per quello che riguarda il PSA, che è l'antigene prostatico specifico per individuare il più presto possibile un carcinoma della prostata, dobbiamo seguire le indicazioni da linee guida. Linee guida in genere ci dicono che dopo i 50 anni, una volta l'anno, andrebbe ripetuto questo PSA. Quindi mi sa che probabilmente il medico ha interpretato in maniera un po' troppo restrittiva questo decreto, quindi forse le sarebbe utile tornare a ripeterlo, perché le linee guida non si toccano, dottor Gargiulo. Le linee guida non si toccano assolutamente, anche perché qua poi entreremmo in un conflitto di competenze fra decreto, che è un decreto che riguarda soltanto la prestazione economicamente erogabile, cioè il decreto riguarda solo la spesa, certo. Non mettiamo solo i denari, non il esatto, cuore. Non riguarda i cuori, ecco, quindi è più di competenza di Debora. E Debora, è colpa di Debora. Allora, dottor Gargiulo, abbiamo giusto 2 minuti, ma torneremo sul rapporto che abbiamo con la terapia che il medico ci ha prescritto. Io volevo solamente citare un dato che del rapporto dell'OFMED, che dice che 6 italiani su 10, tra coloro che assumono farmaci contro la pressione alta, saltano dosi, sbagliano orario o interrompono il ciclo. Dottor Gargiulo, le ragioni sono tante e diverse. C'è anche chi al mattino si misura la pressione, vede che i valori sono corretti e dice: sai che ti dico? Oggi la pillolina non la prendo perché non ne ho bisogno. Se i valori sono corretti, che cosa prendo il farmaco a fare? Dottor Gargiulo, chiudiamo con una raccomandazione sull'importanza dell'aderenza alla terapia e che cosa si deve fare. Dottor Gargiulo? Si è spaventato ed è andato via. Pronto? Ecco, dottor Gargiulo. Sì. No, dicevo, se mi manca il dottor Gargiulo è finita. Devo fare. Allora, dottor Gargiulo, ho preso il dato degli ipertesi. Però, insomma, la stessa cosa si potrebbe, no? Dire anche vale, di chi. Vale ecco. Un po' per tutte le terapie croniche. Sì. Tutte le terapie che devono essere assunte quotidianamente. Facciamo il caso dell'ipertensione perché questa è la più semplice da misurare e poi dopo decidere se prendere o no la pasticca. No, niente di più sbagliato. La pressione va misurata costantemente in chi deve prendere la terapia, ma la terapia va assunta lo stesso, anche se i valori sono un po' più bassi, se tengono un pochino su valori bassi. Certo, se i valori sono drammaticamente bassi, una massima sotto i 90, una minima sotto i 40, allora a quel punto con una consulenza del medico, una telefonata, facciamola. Ma se i valori sono intorno ai 100 la massima o intorno ai 60 la minima, la terapia assumiamola lo stesso. Sarà poi cura del medico, dopo 15-20 giorni di valori particolarmente bassi, decidere se si può ridurre la terapia. Ma sospenderla è un errore molto grave perché si rischia un rimbalzo della pressione. Ecco, il dottor Gargiulo è caduto. Il messaggio però è andato. Volevamo anche chiedergli che chi vuole essere assolutamente ligio, ma si dimentica per una serie di ragioni, magari la pastiglietta, di assumerla all'ora giusta, nel momento giusto, che cosa fa? La riprende? Allora, intanto noi chiediamo in regia di salutare il dottor Gargiulo, perché magari lo recupereranno, lo inviteremo presto. Intanto tutte le indicazioni, i commenti, dal decreto Lorenzin all'aderenza alla terapia li abbiamo dati. Dottor Gargiulo è di nuovo con noi? No? Sì? Dottor Pronto. Gargiulo, eccolo. Eccomi qua, il nostro telefono ci ha fatto qualche scherzo. Sì, guardi, mi sa che vede. Non è colpa del ministro, no, in questo caso. No. Dottor Gargiulo, allora, se invece si dimentica la pastiglia, no, si può prendere anche un'ora dopo, 2 ore dopo, 3 ore dopo. Certo, se l'abbiamo saltata di 24 ore è andata così, ma se sono già 12 ore che l'abbiamo saltata, riprendiamola la pasticca. Meglio non interrompere la terapia, non saltare un giorno, piuttosto che dire troppo tardi non la prendo. Dottor Gargiulo, a prestissimo, la ringraziamo per la chiarezza, per averci dato una mano a interpretare tutti questi dati e questi cambiamenti. Le auguriamo una buonissima giornata. Grazie, grazie a voi. Presto. Arrivederci. Direi che questa parte l'abbiamo sostanzialmente conclusa. Ah no, abbiamo indennità di maternità, congedi parentali, tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Abbiamo migliorato sostanzialmente questo tipo di situazioni. L'indennità di maternità prevedeva l'astensione dal lavoro. È chiaro che per un professionista prevedere l'astensione dal lavoro è, come dire, controindicato rispetto alla natura di questa attività. Analogamente si sono migliorate tutte le tutele che fanno riferimento appunto a gravidanza, malattia e infortunio. Allora, chi occupa la poltrona di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali non sempre è molto simpatico a tutti, perché anche negli ultimi anni, lo abbiamo visto con il Ministro Fornero, insomma, le iniziative che si devono prendere non sempre trovano il riscontro positivo da parte della collettività, ma abbiamo voluto farvi ascoltare questo brano tratto dalla conferenza stampa di settimana scorsa del governo del Ministro Poletti, perché insomma si stava quasi dimenticando una parte importante, ci sta sempre troppo simpatico il Ministro del Lavoro, appunto Poletti. Per fortuna invece questa volta sulle tutele per maternità ed infortunio sono arrivati alcuni interventi attesi da tempo. Allora, lo sapete, noi a Cuore Denari abbiamo voluto sempre dare per quanto possibile la massima attenzione al popolo delle partite IVA, al popolo dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti, e la nostra attenzione spesso e volentieri ha voluto soffermarsi proprio sulle tutele per quelli che vengono conteggiati come oltre 2 milioni di lavoratori che appartengono appunto al mondo degli autonomi. Ci sono state tantissime battaglie da parte delle associazioni di categoria e il governo giovedì scorso ha varato un pacchetto di misure che è stato prontamente ribattezzato Jobs Act per le partite IVA o Statuto dei lavoratori autonomi. Costruire per questi lavoratori, ha detto il ministro Poletti, questo è l'obiettivo, prestatori d'opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro. Detto questo, il presupposto a tutto il tema di stamattina: quali sono allora le nuove tutele in arrivo, cosa cambia per la gestione dei periodi di malattia, di maternità, che erano i punti su cui c'era la maggiore attesa. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Oggi torniamo sul lavoro autonomo dopo che ce ne eravamo già occupate, lo ricorderete, settimana scorsa, quando abbiamo spiegato la rimodulazione del regime fiscale che riguarda questi lavoratori e del passaggio appunto dal regime dei minimi a quello forfettario. Con noi stamattina per una panoramica sulle novità, un amico seduto agli studi di Roma, Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, ciao, ben ritrovato. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Ciao Nicoletta. E poi salutiamo e ringraziamo per essere con noi questa mattina Giorgio Berloffa, presidente nazionale CNA Professioni. Presidente, buongiorno e buon inizio settimana. Buongiorno a tutti voi. Allora, intanto io segnalo che stamattina la spiegazione di tutte queste novità è anche a pagina 7 del Sole 24 Ore, pagina curata da Francesca Barbieri e da Maria Rosa Gheido, che è una consulente del lavoro che ci aiuta molto spesso anche a spiegare appunto tutta la tematica fiscale per i lavoratori dipendenti ed autonomi, naturalmente. Pacchetto di norme richiesto da tempo, dicevamo poco fa, da tutto il mondo del lavoro autonomo, che ha vissuto per troppo tempo questa discriminazione penalizzante per tutta una serie appunto di tutele. Qual è la rilevanza allora di queste novità? Giovanni, chiedo subito aiuto a te per un primo biglietto da visita per quello che riguarda le tutele del lavoro autonomo. Se le potessimo sintetizzare, le 2-3 novità più importanti di questo pacchetto, quali sono? Beh, sicuramente quello di cui scrive oggi Francesca Barbieri sul Sole 24 Ore, cioè il diritto all'indennità di maternità pur continuando a lavorare, è sicuramente un passo avanti. Tanto è vero, oggi appunto Francesca citava quali sono i dati delle COCOCO che a distanza di due anni dalla nascita del bambino lasciano o mantengono il posto di lavoro. Cioè siamo in una situazione in cui solo il 49,2% dei casi mantengono lo stesso lavoro. e il 19,5% l'ha perso. Quindi insomma, questa norma, no, una volta in cui il disegno di legge dovesse essere approvato, rappresenta una tutela importante per tutto quel mondo che fa riferimento appunto alle collaborazioni o a chi lavora a partita IVA, anche perché ricordiamo insomma che non c'è soltanto la maternità, ma c'è anche un pacchetto molto molto pesante che tutela anche i casi di malattia e infortunio. Ad esempio, per quei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa, il rapporto con il committente non si estingue in caso di gravidanza, appunto, malattia e infortunio, ma rimane sospeso, naturalmente in questo caso per senza diritto al corrispettivo, certo. Per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare. Quindi insomma c'è la però possibilità la di congelare. Però hai la garanzia che il lavoro riprenda, certo. Esattamente, c'è la possibilità di congelare il tuo lavoro e poi di riprenderlo nel momento in cui appunto sarai guarito oppure sarai tornato dalla gravidanza. Allo stesso tempo, sempre in caso di malattia e di infortunio grave da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni, viene congelato anche il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, che può essere sospeso fino a un massimo di 2 anni e poi si può tornare a versarli sotto forma rateale. Quindi insomma nel momento in cui si torna di fatto a produrre reddito, c'è un ritorno al versamento dei premi contributivi, certo, assicurativi. Questo è un tema molto importante e lo dico già perché fra un po' vi faremo sentire la testimonianza che avevamo raccolto in una trasmissione di molti mesi fa di Cuore e Denari, che denunciava proprio questo aspetto di una persona. Non vi voglio anticipare niente perché per noi in quel momento, in occasione di quella puntata, era stata una testimonianza molto toccante, però si sollevava proprio la questione del periodo di malattia e la non possibilità di versare contributi pensionistici naturalmente e le tasse, perché evidentemente l'attività si blocca, e adesso chissà che cosa cambierà per la persona interessata, che vi faremo riascoltare tra poco di nuovo. Presidente Berlofa, volevo invece venire da lei. Quanto avete lottato per queste misure? Noi ci ricordiamo, me lo ha raccontato lei per la verità poco fa a microfoni spenti, che l'ultima volta siete stati ascoltati alla Camera dei Deputati in commissione ad ottobre e avevate proprio ripresentato probabilmente per l'ennesima volta il vostro pacchetto sulle tutele del lavoro autonomo. No, ritenete di aver vinto una battaglia? Noi le ritorneremo a spiegare singolarmente fra poco, ma quale ritiene per la vostra categoria che sia particolarmente importante? Diciamo che intanto dal nome che lei prima ha citato, a me il nuovo statuto dei lavoratori autonomi non piace come nome. Preferisco Jobs Act per le partite IVA, perché in questo modo viene a cadere quel diaframma che va spesso i lavoratori dipendenti dai lavoratori autonomi. Tutte e due ci godiamo di un Jobs Act e quindi siamo tutti quanti dei lavoratori che o in una forma o in un altro contribuiscono a migliorare l'economia del paese. Quindi direi che per il governo chiamarlo Jobs Act è stato un riconoscimento molto molto importante per i lavoratori autonomi. Questo Jobs Act è il proseguimento della legge 4/2013, dove noi come PMA professioni abbiamo lottato moltissimo per averla, ed è quella legge che dà dignità ai professionisti non regolamentati. Tra l'altro, Presidente, quanti sono? Perché sa che poi tutte le volte quando si affrontano certi argomenti c'è sempre la guerra di cifre. Insomma, i giornali riportano 2 milioni di partite IVA in Italia. So che in realtà voi poi un pochino di pulizia di questo dato lo fate, forse un po' tanto, una sovrastima, però l'esercito è comunque notevole sempre. Sì, sono notevolissimi. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un osservatorio sulle professioni che ritroveremo ad aprile, e l'abbiamo mandato a tutti quanti i parlamentari. È un documento che serve per capire come sta andando le professioni della legge 4. Noi i dati che abbiamo raccolto sono circa 250-260.000 professionisti che aderiscono alla gestione separata full time e oltre 500.000 che utilizzano la gestione separata part time. Quindi parliamo di una popolazione di circa 750.000 professionisti full time o part time. Lei mi chiedeva qual è il contenuto che maggiormente apprezziamo, ma riapprezziamo tutti i contenuti, vuol dire che per la prima volta siamo entrati a pieno titolo nel welfare, prima eravamo assolutamente abbandonati. Mi pare molto chiaro il giudizio. Allora, intanto io torno ad invitare i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci la loro condizione di liberi professionisti e lavoratori autonomi, tutele che prima non c'erano e che ora arrivano, che cosa si aspettano anche da questo pacchetto varato dal governo. Noi fra poco dobbiamo raccontarvi la borsa, il caso che vi anticipavo prima, a questo punto lo spostiamo nella seconda parte della trasmissione. Sotto gli occhi invece, Nicoletta, ci abbiamo un po' commentato prima su questo caso, di questa situazione che si è verificata appunto in provincia di Novara. Allora, non è una storia che riguarda il tema che affrontiamo noi questa mattina, riguarda però i lavoratori che si devono assentare per ragioni appunto di salute dal posto di lavoro, e so già che questo caso denunciato dalla stampa questa mattina arricchirà probabilmente tutti i talk show nazionali da qui ai prossimi due mesi, perché si parla della storia di questa donna che per una serie di problemi di salute alla schiena ha dovuto assentarsi molto spesso dal lavoro, ha avuto anche un intervento chirurgico molto impegnativo. In azienda l'imprenditore ha praticamente fatto una piccola festicciola dove ha assegnato le tre coppie ai tre dipendenti più assenteisti. Allora, prescindere dal fatto che questo è un problema che in molte aziende c'è, perché molti ne approfittano, soprattutto quando c'è un rapporto di lavoro dipendente, però insomma facciamo veramente fatica a prendere una posizione su questa vicenda, perché poi bisogna vedere. Bisognerebbe conoscerla naturalmente nel dettaglio, ma non so, l'ho voluta raccontare solamente perché ci aveva un po' colpito. Nicoletta, che dici? No, hai fatto bene, infatti ne discutevamo un po' a microfoni spenti. Chissà cosa succede insomma in questa azienda, fra queste persone che si assentano molto e questo imprenditore, perché per avventurarsi nel fare un'iniziativa pubblica in azienda, costruire tre coppe e regalarle tra... Comunque voglio leggerti, prima di andare ai mercati, un messaggio di un nostro ascoltatore che scrive: mio cugino dice che la partita IVA è il miglior vaccino contro tutti i malanni. Questo rende l'idea di come venga gestita la malattia in caso di partita IVA. Si prende l'aspirina e si va comunque a lavorare. Esatto, vedi? Infatti, però insomma ci sono anche molti lavoratori dipendenti che invece stanno sempre al suo posto senza alcuna, come dire, velleità di approfittarsi proprio di un rapporto di lavoro che ha un maggior numero di tutele. C'è Vittoria che peraltro ci chiede, è tardissimo, se i coltivatori diretti avranno lo stesso trattamento degli altri lavoratori autonomi. Adesso lo chiederemo ai nostri ospiti, quindi do loro qualche minuto di tempo per pensarci, documentarsi. Intanto i mercati. Cuore e denari. Io sono in proprio con mio marito, abbiamo una società di traduzioni. Quando ero ancora in allattamento della seconda bambina, la cattiva notizia. Quando ti chiedono in quelle fasi, 8 cicli di chemio, intervento, bambini piccoli, come stai? Era l'ultimo dei problemi, ed è l'ultimo dei problemi, la chemio e la malattia. Il problema sono i debiti con Equitalia, l'INPS. Mio marito l'ho lasciato lavorare, ho fatto di tutto affinché almeno lui lavorasse, la chemio me l'andava a fare da sola, e già che mi trovavo a Brindisi passavo dall'Equitalia chiedendo di realizzare i pagamenti. Questa è stata la mia avventura, e ancora oggi io non dormo la notte, so che dovrei dormire, so che dovrei star serena, e so, perché so che non ci si ammala per caso, io lo so che non ci si ammala per caso, però io devo pagare l'Equitalia. Questa testimonianza di Mimiliana, detta Mimì, una giovane mamma di Brindisi, non ce la siamo mai più dimenticata. Sì, devo dire che la portiamo nel nostro cuore, ci pensiamo spesso. È vero, era il 9 marzo dello scorso anno quando l'abbiamo raccolta, avevamo dedicato una puntata alle donne malate di tumore e alla loro condizione nel lavoro, naturalmente, nel posto di lavoro. Presidente Berloffa, CNA Professioni, noi naturalmente speriamo che Mimiliana sia guarita e non abbia più bisogno di cure, di permessi, anzi permessi da se stessa, dalla sua azienda, e non abbia più bisogno di fare la spola fra IMSS e Agenzia delle Entrate per tentare di dimostrare che stava facendo la chemioterapia, condizione evidente per la quale non era certamente necessario un certificato medico, perché il fisico parla da sé, e quindi era necessariamente in arretrato con i versamenti di tasse e contributi. Oggi, alla luce delle novità di cui parliamo questa mattina, del Jobs Act e degli autonomi, potrebbe cambiare qualcosa per tutte le Mimì in ascolto? Sì, direi decisamente, anche perché per esempio il trattamento oncologico viene assimilato all'indennità della degenza ospedaliera, che ha un valore maggiore rispetto all'indennità di malattia. Parliamo sempre però di importi che sono decisamente più bassi dei lavoratori dipendenti. Mentre un lavoratore dipendente percepisce per la malattia oltre il 50-60% della retribuzione, nei lavoratori con la partita IVA, della gestione separata INPS, si riceve unicamente per quanto riguarda la degenza ospedaliera, nel migliore dei casi se si è versato i 12 mesi nell'anno precedente, il 16% dell'importo che si ottiene dividendo il massimale contributivo diviso 365 giorni. Vabbè, insomma, un conteggio un po' complesso, sì. Sì, però diciamo che nel migliore dei casi si prende intorno ai 20 euro al giorno. Quindi non è questo grandissimo aiuto, però è un inizio che sicuramente lavoreremo per riuscire a migliorare. E poi abbiamo visto che comunque c'è questo diritto di riuscire per due anni, fino a due anni, a non versare i contributi e gli importi assicurativi. Questi saranno versati, prevede il disegno di legge, in rate per un tempo tre volte superiore al periodo di sospensione. Certo, accumulato. Bisognerà vedere, Presidente, anche come si dovrà dimostrare la necessità di interrompere i versamenti, no? Perché se i requisiti per poterlo fare saranno particolarmente stringenti, o che ne so, la documentazione necessaria particolarmente impegnativa da produrre, secondo lei, insomma, ci sarà anche una sorta di semplificazione da questo punto di vista? Si potrà passare attraverso un'autocertificazione per chiedere la sospensione dei versamenti? Quali saranno, secondo lei, le strade che potranno essere percorse in questo senso? Ma io l'autocertificazione sarà da escludere. Qui si parla di periodi di malattia certificata, quindi speriamo che sia sufficiente la diagnosi, la certificazione del medico. Certo. E in terapia il lavoratore. Presidente, purtroppo abbiamo veramente col telefono questa mattina, siamo un po' sfortunati tra Gargiule e lei, la sentiamo non perfettamente, ma adesso speriamo appunto di poter continuare anche a vantaggio dei nostri ascoltatori che sono molto interessati a queste informazioni. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, se volete raccontarci che cosa ne pensate di questo pacchetto che anticipiamo questa mattina, che è stato varato la settimana scorsa appunto dal governo, il nuovo Jobs Act per il lavoro autonomo. Sul tema dei coltivatori diretti, Giovanni Parente, ti sei documentato nel frattempo? Nicoletta mi diceva: guarda che ne abbiamo parlato anche in un'altra trasmissione, in realtà forse per loro tutte queste tutele non sono estese. Allora, va fatta una precisazione che è la seguente: questo disegno di legge si applica per, diciamo, come definizione, ambito di definizione, al lavoro autonomo inteso praticamente come le prestazioni d'opera materiali e intellettuali. Quindi sono escuse da tutto l'ambito di applicazione quelli che sono gli imprenditori, e compresi i piccoli, cioè inclusi appunto i piccoli imprenditori. Quindi chi ha un'attività imprenditoriale, anche piccola attività imprenditoriale, non è toccato dalle novità di questo disegno di legge. Quindi bisogna ricordare che in agricoltura esistono dei regimi specifici, come ad esempio quello IAP, che sono sostanzialmente i piccoli imprenditori agricoli professionali, che quindi in qualità di imprenditori non sarebbero toccati dalle novità di questo disegno di legge. Ora bisogna solo vedere se ma questo è appunto legato alla specificità del lavoro in agricoltura, esistono anche rapporti collaborazione coordinata. In quel caso chi svolge il lavoro da autonomo per un'impresa agricola potrebbe rientrare nelle previsioni di questo disegno di legge. Attenzione però, appunto, che non riguarda il lavoratore agricolo tout court, ma chi lavora per una impresa agricola. Mm-hmm. Ecco. Senti Giovanni, che tempi abbiamo per l'operatività di queste norme? Perché c'è già chi ci sta chiedendo, ti faccio un esempio, un ascoltatore, Giuseppe da Bergamo, ci ha scritto a cuoredenari@radio24.it: io sono un lavoratore artigiano, il prossimo mese devo chiudere bottega per 2 giorni a causa di un piccolo intervento che devo subire. Cosa cambia per me? Cosa devo fare? Che insomma si tratta di un disegno di legge, quindi spieghiamo l'iter. È un disegno di legge che verrà verosimilmente a stretto giro incardinato in Parlamento, dovrà essere approvato prima dalla Camera e poi dal Senato. Quindi, insomma, se tutto dovesse andare bene, che temo... non sarà emendato, perché poi bisognerà vedere anche lì quante, se si interverrà, se qualcuno ci metterà becco, naturalmente. È chiaro che è un disegno di legge, anche se di proposizione governativa, è un disegno di legge, quindi ha un iter un po' meno spedito rispetto a quello che ad esempio può essere la conversione di un decreto legge. Certo. Quindi nel caso in cui tutte le forze politiche convergessero sull'approvazione, sulla ritocchi minimi, comunque il suo tempo ce l'ha. Possiamo augurarci che diventi legge prima dell'estate? Personalmente ho qualche perplessità, però insomma la speranza è sempre l'ultima a morire. Esatto. No, ma poi soprattutto ribadisco, speriamo che non cominci il rimpallo degli interventi per fare qualche correttivo, perché sennò il rimbalzo da una parte all'altra del Parlamento appunto comincia e non finisce più. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Adesso vediamo se i ragazzi ce ne mettono qualcuno in ascolto. Ci sono tanti appunto ascoltatori che vogliono sapere Che cosa succede, perché molti ci stanno raccontando che hanno naturalmente partita IVA, molti che peraltro hanno dovuto per forza aprirla proprio perché le condizioni di lavoro sono cambiate di recente, magari certi lavoratori appunto dipendenti, che improvvisamente il lavoro dipendente è venuto a mancare e quindi per rimettersi di nuovo in pista hanno magari intrapreso un'attività di consulenza, di un'attività appunto di libera professione. Monica da Udine, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Benvenuta. Il mio caso è proprio uno di quelli di cui parlavi tu adesso, nel senso che io sono giornalista professionista, con ero assunta all'epoca, e poi quando sono rimasta incinta dalla mia seconda bimba sono rimasta a piedi, nonostante avrei dovuto impugnare il contratto, però non è da me. E così ho aperto una partita IVA per consulenze di ufficio stampa. Ho 3 bambine, ho una mamma anziana e di fatto, insomma, oltre alle mie malattie ci sono anche le loro. Quindi io trovo che il sistema attuale non sia sicuramente di appoggio a chi come me è stato anche costretto ad aprire una partita IVA. Allora, Monica, peraltro, insomma, quando arrivano le febbri, è ricaduta su tutte e tre, perché si sa che si va a scuola e naturalmente si porta a casa di tutto. Ti dico che sono sorella di una donna con 3 figli, quindi conosco queste dinamiche, anche se indirettamente. Come ti gestisci il menage familiare? Mi gestisco, mi ha fatto ridere anche la battuta di prima, di quell'ascoltatore che ha detto che se tutti avessero la partita IVA ci sarebbero meno malattie o comunque si guarirebbe prima, no? Ha detto che il vaccino di tutte le malattie. Sì, la produttività sul lavoro schizzerebbe la stella. Detto questo, come fai? Io non posso permettermi di essere ammalata. Le bambine, col mio lavoro, con l'ufficio stampa, posso gestirlo anche da casa, però logicamente tra una medicina, misura la temperatura, ne risente decisamente. Esatto. Ma quello che a me più dà in qualche modo fastidio o nuoce sono proprio gli studi di settore. Io dico alla mia commercialista ogni volta: ma senti, mandameli, che vivano una settimana con me, che provino l'esperienza di seguire 3 bambine, una mamma, la casa e il lavoro, poi ne riparliamo degli studi di settore. Monica, tra l'altro, grazie anche per questo assist. Adesso devo andare al traffico, ma Giovanni Parente in 30 secondi, però gli studi di settori probabilmente li saluteremo a breve. Diamogli una buona notizia. Ecco. L'annuncio è arrivato a Telefisco, è che dal prossimo anno, quindi non stiamo parlando di questo, dal prossimo anno dovrebbero essere eliminati per chi svolge un'attività professionale. Quindi insomma, un piccolo sollievo per la complicazione, per le richieste a volte eccessive degli studi di settore, potrebbe arrivare da questo punto di vista. Intanto Monica, naturalmente per Monica l'auspicio di tenere duro, sta allevando nel migliore dei modi possibile queste tre figlie con un grandissimo esempio di donna con forza che si è immediatamente rimessa in pista dopo aver perso il lavoro, peraltro per la gravidanza. Anche là dovremmo aprire un altro capitolo che non è che ci piace molto doverla aprire, un'azienda che ti lascia a casa dopo la gravidanza, chi resta a piedi con la pancia, guarda che è dura. Va bene. Va bene, traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Cuore e Denari. Abbiamo deciso di definire in termini puntuali 10.000 euro, 5.000 euro la deducibilità delle spese di formazione, di accesso alla formazione permanente e quindi tutti gli strumenti che aiutano queste professioni a qualificarsi e a rendersi più forti e autonome. E allora, naturalmente, anche liberi professionisti e lavoratori autonomi hanno tutti il diritto di formarsi, come succede per noi professionisti e per tante altre categorie professionali. Adesso questa formazione ha una sorta di compenso fiscale. 800 24 00 24, numero verde che potete continuare a comporre per parlare con noi e discutere con noi delle novità che sono arrivate da pochissimi giorni, riguardano il popolo delle partite IVA e dei liberi dei lavoratori appunto in libera professione che aspettavano le tutele soprattutto per la gestione dei periodi di malattia e di maternità da moltissimo tempo, e quindi abbiamo un'estensione appunto delle tutele che li avvicina un po' di più al mondo dei lavoratori dipendenti. Allora, presidente Berloffa, torno da lei, presidente nazionale di CNA Professioni, proprio per spiegare bene ai nostri ascoltatori in che cosa consiste questo incentivo fiscale per chi di voi si avventura sul terreno della formazione professionale, vuole migliorare la propria formazione professionale. Intanto, che tipo di corsi stiamo parlando? Sono corsi o di formazione o di aggiornamento, ma prima di parlare di questo mi permetta solo una battuta di 10 secondi sugli studi di settore, perché girano sempre delle cose molto strane sui professionisti. Mi risulta che la congruità dei professionisti agli studi di settore è oltre il 90%. Quindi siamo d'accordo nel toglierli, però vorremmo che fosse sostituita con delle modalità di accertamento cioè che non siano penalizzate, per esempio potrebbe essere il redditometro. Comunque i professionisti sono congrui oltre il 90%, certo. Quindi ci tenevo a dirlo perché alle volte si parla di noi come gli evasori. No, in realtà non avevamo assolutamente sollevato questa polemica, peraltro guardi, mi ricordo in passato di puntate fatte sugli studi di settore, veramente un terreno dire complicato e poco, la questione della congruità, insomma ritrovarsi all'interno di uno spaccato dove... Vabbè, detto questo, Presidente, invece la formazione, ecco, perché voi pure aspettavate, no, insomma, questo incentivo fiscale per potervi tenere sempre aggiornati ed informati. Diciamo che la formazione e l'aggiornamento per il professionista è come, io faccio sempre esempio, come il tornio per il meccanico. Cioè io se non mi aggiorno, se non mi informo quali sono le novità nella mia professione, ovviamente divento obsoleto e esco dal mercato della mia, e quindi vengo battuto dalla concorrenza. Giustamente è stato dato il riconoscimento di 10.000 euro tutte per le spese di iscrizione a master, a formazione, aggiornamento professionale e via congressi eccetera, e anche integralmente deducibili altri 5.000 euro per le spese per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento, sostegno all'autoimprenditorialità. Quindi è una cosa veramente importante. Noi però chiedevamo nell'audizione che lei ha citato prima addirittura che fosse riconosciuto un 150% delle spese sostenute, e mi spiego meglio. Quando il lavoratore dipendente va a fare giustamente un aggiornamento, lascia il posto di lavoro, fa la sua giornata di aggiornamento, il giorno dopo torna al suo posto di lavoro. Quando il professionista va a fare l'aggiornamento, chiude l'ufficio, chiude lo studio, va a fare l'aggiornamento, quel giorno non ha incassi. Certo. E quindi quanto è una restituzione sostanzialmente di un introito mancante, quantomeno voi dite ridatemelo con il fisco, no, quello che viene. Esatto. Quindi noi chiedevamo un 150%, non ci abbiamo rinunciato, accettiamo il 100%, ah, vabbè, perché va bene. Famoso, ma lo per avere il 150. Famoso treno degli emendamenti possibili, potete prenderlo nelle prossime settimane. Esatto, peraltro. No, esatto. Tra l'altro, Presidente, allora, ma per voi come funziona? Nel senso, un artigiano che volesse appunto fare un corso di aggiornamento per poi ovviamente per migliorare la sua professionalità, essere sempre al passo con i tempi, quindi in una miglior condizione possibile con la propria clientela, dove va a fare i corsi? Per noi giornalisti ovviamente c'è solamente il mondo degli enti certificati che rilasciano appunto un passaporto, diciamo, di formazione professionale. Per voi funziona nello stesso modo? Si può andare ovunque? Non lo so, per esempio un artigiano può andare in un corso che viene fatto dalla regione, lì si rilascia un'attestazione appunto che è stato fatto il corso e da lì basta per ottenere poi l'incentivo fiscale, oppure potete andare dove volete? No, c'è sempre la necessità di avere una dichiarazione certificata di dove si è fatta la formazione, devono essere enti riconosciuti, se no si lascerebbe alla libera, così, all'autonomia della fantasia delle persone, che sarebbe, insomma, non sarebbe molto utile in questo caso. Quindi siamo sempre di fronte a aggiornamenti rilasciati da organismi certificati dalla pubblica amministrazione, per esempio, o possono essere riconosciuti dalla regione, o corsi fatti da enti di formazione riconosciuti dal MIUR o quant'altro. Siamo certi che un po' come è successo anche per noi, Presidente, spunteranno enti che faranno formazione professionale in ogni angolo delle città, quindi mi raccomando, vigilate affinché anche tutto questo venga fatto seriamente per i nostri professionisti, ma sono certa che lo state facendo già. Sì, ma stanno già nascendo per i 500 euro dati ai docenti delle scuole, stanno nascendo un mercato incredibile per uscire ad accaparrarsi questi 500 euro. Infatti, quindi andremo sicuramente a controllare che sono una vita per noi. Andiamo però alle tutele, insomma, per la malattia delle partite IVA. Antonio da Roma, buongiorno. Buongiorno. E volevo fare due domande. La prima, io non ho permesso che ho una figlia che lavora in ambito sanitario con partita IVA a gestione separata. La prima domanda è questa: lei per esempio sta facendo un corso di inglese della durata più di un anno presso un ente certificato. Ecco, la prima domanda è se, diciamo, gli importi relativi possono essere poi dedotti dalla dichiarazione che farà dei redditi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è perché riguarda questa tutela, diciamo, tra virgolette, in ambito sanitario, cioè nel senso, se ho ben capito, se questo decreto legge passerà in legge, laddove lei dovesse avere dei problemi di salute, purtroppo ho avuto in passato, mi sembra di capire che potrà usufruire di un certo indennizzo ancora minimo. Ecco, queste erano le due domande. Grazie Antonio, rifacciamo allora l'ABC dei provvedimenti alla luce di quello che sappiamo fino a questo momento e anche alla luce del fatto che si tratta di un provvedimento che dovrà fare un percorso parlamentare che potrebbe essere naturalmente emendato e che quindi ha qualche bisogno, che ha bisogno appunto ancora di qualche settimana o forse mese di tempo per l'approvazione definitiva. Giovanni Parente, vengo da te. Allora, intanto per quello che riguarda il corso di formazione, è una gestione separata, la figlia di Antonio, sicuramente, come dire, questo incentivo fiscale sarà fatto valere nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo, per cui avrà tutto il tempo per poter... Allora, fatemi precisare una cosa. Questo disegno di legge interviene a modificare alcune norme sulla deducibilità che in questo momento esistono ma sono particolarmente limitative. Cioè, la possibilità di dedurre alcune spese di formazione adesso già esiste, però è particolarmente ristretta. Qual è la grande novità di questo disegno di legge? Che diventano integralmente deducibili le spese fino a un tetto massimo di 10.000 euro. Quindi il vantaggio è appunto che se sostengo una spesa per un costo per il mio aggiornamento posso portarlo tutto quanto in deduzione, naturalmente facendo attenzione a non superare il tetto massimo dei 10.000 euro. Un po' il meccanismo che funziona simile a quello delle detrazioni del 65 del 50% di cui spesso parliamo, qui a Corriere della Sera, diciamo, esatto. qualificazione energetica delle case. Sì. Quindi bisogna stare attenti al tetto, ma in questo caso è integralmente deducibile, diventerebbe integralmente deducibile. Adesso, tuttora, ci sono, c'è la possibilità di portarla in deduzione, quindi diventa, diventa però, insomma, bisogna stare attenti a dei tetti, a non cumularle con altre spese, quindi insomma, questo corso, se è sostenuto nell'anno d'imposta 2016, potrà essere portato in deduzione parziale nell'unico 2017. Naturalmente, se il disegno di legge dovesse essere approvato, perché io stavo guardando appunto sulla decorrenza, in teoria non c'è una decorrenza della modifica, cioè non si dice entra in vigore dall'anno d'imposta 2017, sì, ad esempio. Vabbè, diciamo che ho dato un po' un'interpretazione di buonsenso. E quindi esattamente, hai dato un'interpretazione di buonsenso, quindi se l'approvano quest'anno potrebbe addirittura essere già utilizzato integralmente la deduzione nell'anno nell'unico 2017. Allora, il tema della malattia invece per la figlia del nostro ascoltatore, poi in realtà siamo arrivati alla conclusione, dobbiamo salutarvi. Allora, nel caso in cui abbia questa persona un committente unico, gravidanza, malattia ed infortunio degli autonomi, non estinguono il rapporto di lavoro ma lo sospendono fino a 150 giorni senza corrispettivo. Ha diritto anche ad una piccola indennità di malattia la figlia di Antonio? Giovanni? Per quanto riguarda la figlia non c'è una previsione specifica. Tutto sarà a vedere poi come l'INPS in qualche modo interpreterà queste norme, se ci sarà una possibile estensione da questo punto Presidente di vista. Presidente Berloffa vuole concludere in 5 secondi, 5 proprio. Sì, volevo ricordare che la deducibilità non è solo di 10.000 euro. 10.000 euro riguarda la formazione, gli aggiornamenti, eccetera. E poi ci sono ulteriori 5.000 euro. Per la certificazione delle competenze e l'orientamento. Quant'altro. Quindi sono 15.000 euro che possiamo complessivamente portare. Grazie a Giovanni Parente, Giorgio Berloffa. Noi torniamo domani, è tardissimo. Buona giornata.